Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria che in realtà è ancora in divenire, perché proprio in questi istanti sta parlando il Premier Matteo Renzi e poco fa saremo anche in grado di farvelo ascoltare in merito alla polemica presente oggi in molti giornali sulle possibili dimissioni del commissario alla Spending Review Carlo Cottarelli. Poco fa Matteo Renzi, così battono le agenzie, ha detto sostanzialmente faccio anche a meno di Cottarelli. Adesso cerchiamo di capire con le prossime agenzie meglio il senso di questa dichiarazione, però ha già dichiarato sempre pochi minuti fa attenzione, i dati economici sono altalenanti, la disoccupazione va meglio ma la crescita è decisamente più bassa di quello che ci aspettavamo e non siamo in condizioni di avere un percorso virtuoso come avevamo immaginato. Questo nel giorno in cui, e così entriamo anche nel vivo dei temi di questa puntata, i dati sulla disoccupazione segnalano un leggero miglioramento, che comunque va registrato e ricordato, sulla disoccupazione generale, 12,3%, sono 0,3 punti in meno rispetto a maggio quando era al 12,6, e questo sulla disoccupazione complessiva. Sulla disoccupazione giovanile invece purtroppo si sale a un record mai toccato da quando misuriamo la disoccupazione giovanile, ossia dal 1977, il che, come spesso spieghiamo, vuol dire che magari è la più alta dal 67, dal 72, dal 65, dal 48, non lo sappiamo perché la misuriamo in questo modo come serie storica mensile e trimestrale dal 77. Ecco, non era mai successo che la disoccupazione salisse al 47,7%, che vuol dire cresciuta di altri 0,6 punti rispetto al mese di maggio ed è cresciuta del 4% rispetto a un anno prima, il che vuol dire che sostanzialmente quasi 44 giovani su 100, 43,7 per la precisione, sono disoccupati, di quelli diciamo che potrebbero lavorare. Anche qui il dato è obiettivamente molto preoccupante. Nel giorno in cui invece vediamo un'altra conferma che non avremmo voluto vedere, cioè l'inflazione in tutta l'area euro continua a calare, è allo 0,4% a luglio, mentre la stima era dello 0,5%, e in Italia l'inflazione praticamente sta scomparendo, è allo 0,1% a luglio, al minimi dal 2009, addirittura sul mese precedente saremmo già in deflazione, meno 0,1%. Abbiamo più volte spiegato qual è il problema di un'inflazione troppo bassa, perché molti possono dire ben vengano i prezzi che non salgono. Se i prezzi non salgono perché c'è molta offerta rispetto alla domanda è un bene, se i prezzi non salgono perché la domanda è crollata è un male, perché significa che non ci sono consumi. Ma soprattutto la deflazione ha due grossi problemi: se i prezzi sono in calo si rimandano gli acquisti perché si aspettano prezzi più bassi, e soprattutto se i prezzi sono in calo il problema ce l'hanno tutti i debitori, e quindi in primo luogo anche lo Stato italiano, ma anche i debitori nei confronti delle banche, chi ha un qualunque tipo di debito. Perché? Perché lo spieghiamo sempre, immaginiamo l'inflazione al 10%, allora se io devo 1000 euro alla mia banca dopo un anno con l'inflazione al 10%, il valore reale che devo è 900 euro, se invece avessi una deflazione, cioè prezzi in calo del 10%, dopo un anno la mia banca dovrei 1100 euro come valore reale, restano sempre 1000, ma in deflazione vuol dire che valgono 1100, e quindi sostanzialmente si aggravano e peggiorano le condizioni di tutti i debitori. Questi due problemi principali della deflazione. Allora, a fronte di questo scenario, che modestamente stiamo raccontando da settimane, da quando l'Istat, la Banca d'Italia, il Centro Studi Confindustria ci hanno detto che l'economia non crescerà più dello 0,2%, il governo prende atto prima che esca il dato sul PIL, dovrebbe uscire il 3 agosto, e dice, lo dice appunto il Premier Renzi, non ci sono le condizioni per il percorso virtuoso che avevamo immaginato. 349-238-6666 per i vostri sms. Parleremo di questo, ma anche del contratto dei bancari che riguarda oltre 300.000 persone, 309.000 dipendenti del settore bancario. Il 30 settembre scade la proroga alla disdetta dell'accordo fatto in maniera unilaterale dall'ABI, dall'Associazione delle Banche Italiane, lo scorso ottobre. E cercheremo di capire con il neo presidente per gli affari sindacali del lavoro dell'ABI, che è Alessandro Profumo, presidente del Monte dei Paschi, da un lato, e dall'altro lato con il segretario della FABI, che è il sindacato più rappresentativo nel mondo bancario, Lando Sileoni, se vi siano dei punti di caduto, oppure dei punti di caduto vuol dire dei punti di contatto, di mediazione possibile, oppure se al 30 settembre i bancari non avranno ancora il loro contratto. Di questo ne parleremo a breve. Dicevo, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook, rapidamente le altre notizie in breve. Giustamente un ascoltatore che ha studiato economia mi fa notare che c'è la famosa curva di Phillips, si studiava, adesso mi fate tornare indietro all'università, però si studiava ai tempi dell'università, che mette in relazione, in correlazione, l'andamento dell'inflazione e l'andamento della disoccupazione. È verissimo, in questo caso abbiamo infatti un'inflazione che scende e una disoccupazione che aumenta. Allora, eccola qua, dell'Argentina parliamo tra un attimo. Eccola qua, è riferito all'agenzia del Premier Matteo Renzi, che dice: rispetto e stimo Cottarelli, farà quello che crede, ma non è Cottarelli il punto fondamentale, la spending review la facciamo anche se va via, dicendo con chiarezza che i numeri sono quelli. Ecco, lo dico perché oggi sulla vicenda Cottarelli invece c'erano state così varie posizioni. Per esempio il ministro dell'economia non ha voluto rispondere, ha dribblato la domanda su Cottarelli durante la conferenza stampa con l'omologo francese Michel Satin, ha detto non c'entra con questo evento, lo dico anche per rispetto a lui. Poi sempre Padoan aveva detto la situazione dell'economia è meno favorevole, serve uno sforzo per sostenere la crescita. Poi il tema di Cottarelli resta, perché stando alla ricostruzione di buona parte della stampa di oggi, lo dico per chi si fosse perso le puntate precedenti, Cottarelli ha fatto notare che sono stati spesi fino adesso, impegnati, 1 miliardo e 600 milioni prima ancora di essere risparmiati. E ieri c'è stato un vero sfogo da parte di Cottarelli nel suo blog, dove ha scritto: se si utilizzano i risparmi sulla spesa per aumentarla, il risparmio non potrà essere utilizzato per ridurre le tasse sul lavoro. Da lì le frizioni con il Presidente del Consiglio, ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la soluzione trovata in Parlamento, non dal governo, in Parlamento, per il problema dei 4.000 insegnanti bloccati in servizio dai meccanismi della legge Fornero a pochi mesi dalla data in cui sarebbe maturata la pensione. La legge Fornero ha fatto tanti di quei danni che meglio lasciar perdere. Comunque, anche questa volta, per reperire i fondi necessari ad anticipare il ritiro, i fondi si sono stati trovati dai presunti risparmi alla revisione della spesa, e da lì il messaggio di Cottarelli, che ha detto: beh, se già utilizziamo risparmi presunti per nuove spese, sarà impossibile utilizzare questi risparmi della pubblica amministrazione per la riduzione delle tasse. Allora, al di là di queste due notizie, andiamo anche sull'Argentina. Qualcuno mi dice: non avete capito nulla. Ieri il collega del Sole 24 Ore, Vittorio D'Arolda, ha detto che probabilmente c'erano le speranze per arrivare a un accordo in serata, e tutte le agenzie recitavano in questo modo. La vita è bella anche perché varia, e infatti l'accordo non è arrivato. Tecnicamente l'Argentina è in default, in realtà manca dai mercati internazionali da quando è fallita per la prima volta, quindi non ce ne accorgeremo tanto di questo default. È il secondo in 13 anni. dice il ministro Buenos Aires ha negato il default tecnico, che si ha quando non si paga. Ha detto l'Argentina ha pagato, ma i fondi sono stati bloccati. Il ministro definisce la situazione del debito argentino senza precedenti. E poi il capo di gabinetto presidenziale Jorge Capitanich ha detto la responsabilità è di quello che è successo è di uno Stato, degli Stati Uniti. Questa è una vergogna, hanno voluto far fallire le trattative, gli Stati Uniti sono responsabili di non aver agito responsabilmente e che non vengono con la scusa che il potere giudiziario è indipendente perché non lo è. Sentiamo questo passaggio della dichiarazione del portavoce del governo argentino Jorge Capitanich. No se puede funcionar así en un sistema de carácter financiero y o capitalista. Esta es verdaderamente una vergüenza. Un sistema capitalistico e di mercato non può funzionare in questo modo. Questa è davvero una vergogna. Se c'è un giudice che si confonde e non prende decisioni, un giudice che è chiaramente un agente dei fondi avvoltoi, con un potere giudiziario al servizio di questi fondi, di quale giustizia e di quale indipendenza del potere giudiziario state parlando? Aquí hay una responsabilidad de un Estado. Chi ha la responsabilità, in questo caso gli Stati Uniti, deve garantire il rispetto della sovranità nazionale dei paesi. Soberanía de los países. Esta es la posición argentina. Questa è la posizione dell'Argentina. Una posizione razionale basata sulla Costituzione e sulle norme che regolano la sua applicazione. Posizione che rispetta quanto previsto nel prospetto dei titoli ristrutturati. Che ese prospetto è un contratto. Prospetto che è un vero e proprio contratto che non può essere contestato. Por los organismos de regulación. Pertanto l'Argentina farà valere i suoi diritti davanti alla comunità internazionale. Farà valer sus derechos ante la comunidad internacional. Ecco, attenzione che il default argentino coinvolge titoli per circa 30 miliardi di dollari l'Argentina ha ristrutturato il suo debito come chiedendo un accordo firmato da quasi tutti, non dagli hedge fund americani, con due ristrutturazioni 2005-2010, ha allungato la scadenza delle obbligazioni e ha tagliato il valore dei titoli. Questa bancarotta non ha risvolti traumatici come quella famosa del 2001, l'Argentina è assente dai mercati, non si segnalano esposizioni significative di gruppi finanziari internazionali, cioè l'effetto contagio non dovrebbe esserci. E non è un default nemmeno così svantaggioso per l'Argentina, perché in questo modo l'Argentina evita di sborsare i miliardi per pagare i fondi e può aprire un nuovo tavolo con lunghe trattative. Certo, è ovvio che se questo default venisse mantenuto per un periodo lungo avrebbe anche le sue conseguenze, ma conseguenze drammatiche, grosse, nell'immediato, stando a tutti gli osservatori, non dovrebbero esserci. Della disoccupazione abbiamo detto, della deflazione anche. Sì, faccio notare che nel pomeriggio c'erano state anche alcune dichiarazioni dello stesso Cottarelli che ha detto il lavoro continua, non ho niente da segnalare. E il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Delrio ha detto non c'è nessun caso Cottarelli. Non so se si possa ancora dire così dopo le dichiarazioni del presidente del Consiglio, che insomma il titolo battuto la spending review la faccia anche senza Cottarelli, insomma, non è il massimo nei rapporti, però vedremo, magari rientra tutto. All'Italia è partita la lettera di Etihad e quindi non so quanto ci mette una lettera ad arrivare, ma insomma nel 2014 dovrebbe essere anche un problema di secondi. Il consiglio di amministrazione della compagnia Alitalia è stato convocato per domani mattina, anche 50 milioni in aumento di capitale per portarlo fino a 300 milioni da approvare poi in assemblea. Il CDA delle Poste invece è stato anticipato ad oggi pomeriggio. Firmato l'accordo tra l'amministratore delegato della Cassa Depositi e Prestiti, Gono Tempini, e il presidente di State Grid International Development, Zhu Guangqiao, per cedere il 35% della Cassa Depositi e Prestiti Reti per 2 miliardi all'appunto State Grid International Development. La firma avverrà a Palazzo Chigi, la firma a Palazzo Chigi è con Matteo Renzi, il closing vero e proprio dell'operazione è atteso invece per fine anno. E sempre a proposito di acquisizioni e quant'altro, la famiglia Rovati ha ceduto la controllata Rotta Farm agli svedesi di Meda per circa 2 miliardi e 300 milioni di euro. Alla famiglia Rovati resta una quota del 9% nella società acquirente, quindi nella svedese Meda. E sempre in tema di investitori esteri, quelli che arrivano nel nostro paese, noi siamo a favore, già ce ne sono pochi, possiamo lamentarci se qualcuno vuole comprare mantenendo la produzione e il valore aggiunto in Italia, società e aziende italiane. Dicevo, la famiglia saudita dei Bin Laden, per precisione sono cugini e anche fratelli del capo di Al-Qaeda ucciso nel 2011, che è una delle famiglie più ricche dell'Arabia Saudita, ha costruito mezza Arabia Saudita. Beh, dicevo, la famiglia Bin Laden, dopo mesi di trattative, è diventata proprietaria di buona parte delle famose cave di marmo bianco di Carrara. Attenzione, CPC è il gruppo di costruzione da 38 miliardi di fatturato, la cassaforte della famiglia Bin Laden, ha sede a Jeddah, ha acquistato per 45 milioni di euro dalle famiglie Gaspari, Piacentini, Tonini e Volterrani il 50% dei marmi di Carrara, che controlla a sua volta, insieme alle cooperative degli scavatori, un terzo delle cave di Carrara. L'altro 50% dei marmi di Carrara resta in mano alle famiglie di due imprenditori della zona, che sono Franchi e Rossi. Al momento però non vi sarebbero novità su investimenti e occupazioni, come ha spiegato Giulio Andreani, uno degli avvocati che ha seguito la vicenda, al microfono alla nostra Livia Zancaner. Al momento non c'è nessun accordo che riguarda questi temi, però la rilevanza del gruppo è a tutti nota, il terzo gruppo nel settore delle costruzioni a livello mondiale, di questi materiali ha bisogno anche per l'attività di costruzione che svolge direttamente. Nel mondo arabo il marmo di Carrara ha sempre goduto di grande apprezzamento, quindi è abbastanza naturale pensare che contribuiranno alla valorizzazione di questo materiale, che è un materiale pregiato. Vista l'importanza dell'attività svolta da questa società nell'ambito del comprensorio papuano, direi che insomma potrebbe far da volano anche per altre attività, per le attività svolte da altre imprese del settore. Allora, manca solo la borsa, meno 1,32% oggi Milano, debolissime tutte le borse europee, la vicenda argentina faceva paura soprattutto stamattina, poi attenzione che in alcuni casi sono anche scuse, meno 1,80 Francoforte, meno 1,5 Parigi, meno 0,70 Londra, meno 1% l'America. Tra i titoli CNH Industrial più 3,40, Generali più 2,30, Pop Milano più 0,80, Enel più 0,60. Chi va male invece? World Duty Free perde 4,40, Unipolsail 3,90, Banco Popolare meno 3,60, Buzzi Unice meno 3,30, come Tenaris e Mediaset. E Telecom perde il 3% come Fiat e la Popolare Emilia Romagna. Parleremo più avanti di come tenere assieme questi dati macroeconomici con la polemica con Cottarelli, insomma un po' di tensioni. È chiaro che il governo si è concentrato sulla riforma del Senato, anche correttamente, ma adesso diventa impellente il pacchetto di riforme sull'economia. Però, mentre abbiamo un peggioramento netto della disoccupazione giovanile, è andata a livello record dal 77, da quando la misuriamo, dicevo, c'è un contratto del lavoro che è stato disdetto a ottobre, è quello dei bancari, e il rinnovo sta facendo molto discutere le parti in causa. Parliamo del contratto nazionale dei bancari, scade il prossimo 30 settembre, o meglio scade la proroga della disdetta del contratto collettivo nazionale che interessa circa 309.000 bancari, sono diminuiti di 28.000 i bancari dall'inizio della crisi dal 2008 ad oggi, anche perché nel frattempo sono stati chiusi circa 1.000 sportelli, attualmente dovrebbero essere circa 32.500 gli sportelli bancari nel nostro paese. cosa è successo? C'era un accordo che era stato siglato a inizio 2012 e prevedeva un aumento medio regime di 170 euro, il blocco degli scatti di anzianità per un anno e mezzo e il rallentamento della dinamica di accantonamenti per TFR, riduzione del salario d'ingresso del 18%, poi veniva prevista anche l'introduzione di un contratto complementare da 40 ore alla settimana e riduzione del 20% delle retribuzioni. Questi risparmi avrebbero dovuto favorire l'assunzione di 16.500 giovani entro il 2015. Poi però viene proclamata una disdetta unilaterale dall'ABI, ce ne siamo occupati anche in diretta, che ha originato lo sciopero dello scorso 31 ottobre. Adesso la proroga di questa disdetta adesso scade il 30 settembre. Siamo in collegamento da un lato con il segretario generale della FABI, che è la Federazione Autonoma Bancari Italiani, il principale sindacato del settore, Lando Sileoni, buonasera. Buonasera. E dall'altra con chi ha da poco, da una settimana, ottenuto la presidenza del Comitato per gli Affari Sindacali e del Lavoro dell'ABI, che è l'Associazione delle Banche Italiane. Lui è Alessandro Profumo, che come tutti sanno è anche presidente del Monte dei Paschi. Buonasera anche a lei, presidente. Buonasera. Allora, vorrei partire dal presidente Profumo. Dunque, il 30 scade la proroga. Voi avete, se ho ben capito, fissato due incontri con i sindacati il 18 e il 24 settembre. Immagino che punti a chiudere entro il 30, ma ci sono le possibilità, ci sono dei punti di caduta che lei intravede? Ma guardi, io penso che tecnicamente sia impossibile chiudere entro il 30 di settembre. È un contratto ovviamente complesso, perché il settore bancario sta attraversando per via dell'economia nel suo insieme una fase particolarmente complessa di grandissimo cambiamento. Pensare di trovare un punto di sintesi in un mese credo che sia molto complesso. So che c'è stato tanto lavoro fatto nel passato, ma come lei diceva, siamo un attimo in una situazione vogliamo chiamarlo stallo. Credo che sia importante fare le cose rapidamente bene, ma il rapidamente non può essere 30 giorni. Ecco, possiamo ricordare a tutti però perché l'ABI in maniera unilaterale disdettò il contratto siglato a inizio 2012? Ma guardi, il tema credo che sia legato, insomma, bene dircelo, al fatto che il settore bancario oggi attraversa una fase di difficoltà nel suo complesso, perché il paese è in difficoltà. Ricordiamoci che noi abbiamo un portafoglio crediti nei confronti delle famiglie e delle imprese italiane, noi come settore ampio, che purtroppo non performa bene, i tassi sono particolarmente bassi, l'attività economica in generale è bassa, quindi anche i ricavi hanno delle dinamiche certamente non brillanti, ricavi non brillanti, il costo del credito elevato ha portato a una compressione di margini, per cui molte banche hanno significative difficoltà nel chiudere il conto economico in attivo. In tutto questo ci sono dei cambiamenti normativi molto rilevanti e ci sono dei cambiamenti molto rilevanti nei comportamenti dei nostri clienti, per fortuna dico, ma che comunque hanno un impatto sul come si fa banca. Questo insieme di elementi porta a una difficoltà a poter gestire delle dinamiche di costo che sono incompatibili con le dinamiche di ricavo. È ovvio che noi siamo aziende basate sugli uomini, circa il 65% dei nostri costi sono costi delle nostre risorse, delle nostre persone. Quindi dobbiamo avere la capacità di trovare delle modalità che riescano a far quadrare equazioni che sono piuttosto complesse. Credo che questa sia la sfida che insieme al sindacato abbiamo e che dobbiamo affrontare con serenità e con visione. Allora, Sileoni, mi sembra di aver capito, però poi mi correggo Profumo se ho capito male, che insomma il 30 settembre non si chiude, ma soprattutto che l'ABI punta a rivedere quello che era l'accordo di inizio 2012 a fronte di una difficoltà economica complessiva del paese e specifica del settore bancario, vuoi le sofferenze, vuoi appunto l'andamento anche dell'economia. Giro a lei la stessa domanda, Sileoni, però su quali punti siete disponibili a trattare, cioè dove si può trovare un incontro, ammesso o non concesso a questo punto che tutto slitterà dopo il 30 settembre? Ma intanto condivido pienamente, come dire, l'analisi di scenario che ha fatto il Presidente Profumo, e condivido anche il fatto che entro settembre non abbiamo il tempo proprio dal punto di vista tecnico per poter raggiungere ad un accordo. Secondo me non serve un contratto di manutenzione, serve un contratto sicuramente innovativo, e per questo noi ci auguriamo che almeno entro la fine dell'anno possiamo garantire un contratto ai 309.000 addetti del settore. Il punto secondo noi è un altro: noi sappiamo perfettamente dove vuole arrivare l'ABI. Ce lo dice anche a noi? Come? Lo dice anche a noi? Sì, e mi rivolgo a lei, al Presidente Profumo, ma mi rivolgo principalmente a tutto il comitato sindacale di ABI, dove sono rappresentati tutti i gruppi bancari. Allora, noi sappiamo perfettamente che il 18 giugno del 2014, quando ancora il Presidente Profumo non era stato eletto appunto Presidente, insomma, il cartello politico, la strategia politica di ABI è ben chiara. Noi sappiamo che vogliono destrutturare il contratto nazionale, vogliono sicuramente una retribuzione economica a tre velocità, una per il core business, una per il personale amministrativo, un altro per i contratti complementari. Quindi vogliono inserire un concetto fondamentale che per noi è, come dire, inconcepibile: vogliono un salario, all'interno del salario una parte fissa e una variabile. E poi c'è un altro argomento estremamente di grande attualità, molto sensibile alle organizzazioni sindacali, che sono le esternalizzazioni. Ci sono circa 13.000-14.000 addetti sui 309.000 che potrebbero essere interessati al fenomeno delle esternalizzazioni. Noi invece vogliamo tenere insieme tutta la categoria. Insomma, noi vogliamo un contratto che mantenga gli attuali livelli occupazionali e che crei anche le condizioni per, in un prossimo futuro, per fare nuove assunzioni. È per questo che abbiamo anche proposto un nuovo modello di banca. Ha ragione il Presidente Profumo quando dice ogni gruppo bancario, ogni azienda deve essere libera di attuare la propria organizzazione. Ma noi vogliamo recuperare invece quelle attività, come le consulenze che purtroppo vengono date all'esterno, che un tempo si facevano, che 15 anni fa all'interno delle banche avevano un loro valore aggiunto, come le consulenze legali, le consulenze fiscali. Ecco, vogliamo creare le condizioni per un nuovo modello di banca che sia sul territorio, per un modello di banca che aumenti i ricavi e che mantenga gli attuali livelli occupazionali. Allora, ascoltata così, diciamo, in chi non fa parte della trattativa, mi sembra che i punti di distanza, invece, più che punti di caduta, siano ancora ampi. Presidente Profumo, è vero, lei si riconosce con la descrizione dei vostri obiettivi fatta adesso da Sileoni, cioè avere una parte forte di contratto variabile, tre tipologie, diciamo, contrattuali, con quello che ne consegue, e poi un commento anche sull'idea che invece la banca torni ad appropriarsi di attività a partire da quella consulenziale che ha appaltato all'esterno in molti casi. Ma guardi, lei quando mi ha presentato ha detto il dottor Profumo è diventato presidente del CASL da una settimana. Mi faccia dire che in questo caso è anche una situazione fortunata, nel senso che io mi considero un pochettino come una lavagna bianca, so soltanto che noi dobbiamo riuscire a trovare un accordo su un contratto che consenta alle nostre persone e alle nostre aziende di avere una prospettiva di futuro, perché laddove non ci sia una sostenibilità anche economica, oltre che motivazionale e quant'altro, purtroppo non riusciremo più a discutere nemmeno del fatto di avere un contratto. Quindi credo che sia assolutamente fondamentale riavvolgere un attimo il nastro, ripartire, vogliamo dire, da zero, e chiarirci per bene le idee su quali sono le cose fattibili e quelle non fattibili. Dal mio punto di vista, so che come CASL abbiamo avuto, CASL e questo comitato per i sindacali del lavoro di ABI, abbiamo avuto un mandato che ci dice che noi dobbiamo lavorare con una fortissima unitarietà come sistema bancario nelle diversità che le banche hanno, Quindi il lavoro che faremo al nostro interno è quello di chiarirci per bene le idee su quali sono le nostre priorità e poi ci siederemo al tavolo per discutere con il sindacato di quali sono gli strumenti con i quali dare una prospettiva di futuro alle nostre persone e alle nostre aziende. Questo è quello che so. Dopodiché ci possono essere strumenti diversi e di questi strumenti andremo a discutere. Allora, adesso al metro e la pubblicità. Sileoni, dopo il metro e la pubblicità, vorrei ripartire da quello che ha appena detto Alessandro Profumo, se ho ben capito. Dice, insomma, ripartiamo da zero, risediamoci attorno a un tavolo e cerchiamo anche di capire le priorità all'interno dell'ABI, e cioè dei vari associati, le varie banche che fanno parte dell'ABI. Yeah. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, al segretario della FABI dei bancari italiani, Lando Sileoni, Alessandro Profumo come presidente non del Monte dei Paschi in questo caso, ma dell'organismo dell'ABI che ha la delega, quindi ha la delega a trattare con voi, ha detto: risediamoci al tavolo, ripartiamo da zero, cerchiamo di capire, sintetizzo brevemente, le priorità all'interno anche degli associati e quindi delle banche, che è comunque un mondo giustamente variegato, banche grandi con proiezioni internazionali, banche più locali. Io chiedo a lei, voi come sindacato dei bancari, dei 309.000 bancari, non li rappresentate tutti, ma su cosa sareste disposti, non dico a cedere, ma insomma a venire incontro, a trovare un punto di contatto, un punto di caduta? Cioè, saremmo tutti contenti che vi fossero più assunzioni, meno esternalizzazioni, ma dobbiamo anche confrontarci con questo mondo, Sileoni. Sì, sì, ma io penso di essere molto concreto. Allora, intanto devo ringraziare il Presidente Profumo perché nell'intervista al Sole, insomma, ha chiaramente fatto intendere che vuole il dialogo e noi vogliamo dialogare perché noi, per noi il benessere, al benessere delle banche deve corrispondere il benessere dei lavoratori e delle loro famiglie. Quindi insomma, abbiamo le idee chiare su quello, su quello che dobbiamo fare. Per quanto riguarda il Presidente Profumo, è stato già avuto un'esperienza all'interno del Comitato Sindacale in ABI dal 99 al 2005, no? Quando ancora non c'era la crisi, quando il settore andava abbastanza bene. Il Presidente Profumo sa molto bene che gli ultimi 4-5 contratti nazionali, insomma, non sono stati contratti di svolta, no? Oggi noi abbiamo bisogno del coraggio e della forza per poter cambiare, per prendere delle decisioni che possono risolvere dei problemi. Ecco, il modello di banca che noi intendiamo proporre e sul quale vogliamo confrontarci serve esclusivamente per garantire gli attuali posti di lavoro e per creare le condizioni, come dicevo prima, per farne altre appunto nei prossimi anni. Noi pensiamo che come dire, il Presidente Profumo sia autorevole, il CASL sia una controparte autorevole, ma che poi dopo, è già accaduto in passato, una volta che vengono fatti a Roma, in ABI, degli accordi a livello nazionale, i primi a disattendere questi accordi e a forzare certe situazioni sono proprio le banche nei gruppi. Quello che io lamento, quello che noi lamentiamo, è un fatto veramente politico. In ABI sono tutti concordi che bisogna affrontare il problema, ma nei gruppi, ad esempio, non solo vanno spesso in completa, come dire, in completa controtendenza rispetto a quanto le organizzazioni sindacali e l'ABI hanno deciso a Roma, ma spesso, come dire, cercano anche l'occasione per, come dire, per andare oltre. Questo è inconcepibile perché noi siamo rappresentativi e noi con il Presidente Profumo, ma anche con lo stesso Micheli, che ha fatto il presidente fino a qualche giorno fa, noi vogliamo una controparte rappresentativa. Questo purtroppo negli ultimi anni spesso appunto non c'è. Allora faccio rispondere per concludere ad Alessandro Profumo su questo. Profumo, visto che proprio in questi giorni commentavamo le indiscrezioni che arrivano dalla Bank of England su addirittura punizioni severissime ai manager bancari sette anni di bonus che dovranno ridare se accusati. Vorrei capire se il tema dei bonus ai top manager, visto che lei è nato al Monte dei Paschi a paga zero, se possiamo dire così, se il tema dei bonus ai top manager bancari entra come elemento, non dico ideologico, ma quantomeno insomma, di difficoltà poi in questa trattativa. Quindi la risposta a Silioni e alla mia ultima domanda. Ma allora, sul tema della rappresentatività dell'ABI, credo che tutti noi vogliamo avere degli interlocutori che assumono degli impegni e poi li mantengano. Credo che sia opportuno non fare oggi processi e le intenzioni. Facciamo un accordo e poi facciamo in modo che questo accordo venga rispettato. È ovvio che dovremo fare un accordo che riesca a prevedere la grande diversità di situazioni che ci sono nel sistema e nel settore bancario, che credo siano un elemento di ricchezza e di opportunità anche per i sindacati. Cioè, se i sindacati avessero di fronte un monolite che ha comportamenti totalmente omogenei, penso avrebbero difficoltà molto maggiori. Quindi credo che questa diversità sia un elemento di valore, diversità che sono nelle dimensioni, negli assetti proprietari, nelle strategie, nell'organizzazione, negli stili di gestione e in quant'altro. E credo che questo sia, torno a dire, un elemento anche di ricchezza e di opportunità per i sindacati. Per quanto riguarda i compensi del top management, penso che sia opportuno fare dei ragionamenti che siano anche un minimo più articolati. Qua mi dispiace citare la banca che oggi presiedo, però ad esempio se guardo il gruppo manageriale che c'era prima e il gruppo manageriale che c'è oggi, vedo che in termini di compensi oggi spendiamo il 54% in meno di quanto veniva speso in precedenza, no? Allora, vogliamo discutere di compensi individuali o vogliamo vedere questo insieme di cose? Credo che appunto la complessità sia rilevante, perché torno a dire, noi dobbiamo avere persone che a tutti i livelli sono motivate, che a tutti i livelli lavorano bene e che rendono sostenibile l'economicità dell'azienda. Appunto, riguardo alcune situazioni, oggi vediamo che ci sono costi per magari accorpamenti di posizione e quant'altro che sono sensibilmente diversi rispetto al presente. Questo è quello che ha fatto Monte Paschi, ne ha fatto anche molte altre aziende. Quindi penso che dobbiamo avere la capacità di entrare un po' nel merito dei problemi, uscire da slogan ideologici che poi sono anche importanti e non è che ne neghi l'importanza, ma ne renda conto, ma con grande pragmatismo che io riconosco a forze sindacali italiane, quantomeno del nostro settore, discutere di problemi reali e andare a soluzioni. Allora, sì, sia importante dire, mi faccia finire, prego, se posso, un secondo, che se guardo, prima Silioni ricordava che sono fatto parte del CASL dal 98, credo 97, 97 non si chiama CASL perché c'ero già fino al 2005, ma anche successivamente. Questo è un settore che ha avuto una capacità di innovazione unica, perché ricordiamoci che ad esempio il contratto che il settore bancario ha fatto nel 98 fu assolutamente innovativo sotto il profilo economico, assolutamente innovativo sotto il profilo normativo. Voi ricorderete che noi avevamo, per dire, la figura del funzionario che è stata cambiata, cioè, quindi abbiamo già avuto dimostrato che come settore sappiamo essere profondamente innovativi. Credo che oggi dovremmo avere di nuovo questa capacità, però per essere innovativi bisogna uscire dagli slogan ideologici. Allora, grazie intanto a Alessandro Profumo e Lando Silioni, vedremo cosa capiterà nella settimana precedente dopo questi due primi incontri, 18 e 24 settembre. Ha ragione Profumo a ricordare che il Monte dei Paschi, banca che presiede, ha una politica di remunerazioni che è del 50% inferiore a quella precedente, alla gestione Musseri per intenderci. Faccio notare che se la legge che stabilisce la Banca d'Inghilterra fosse già stata presente in Italia, i vecchi manager del Monte dei Paschi, oltre a rischiare tutto quello che rischiano, avrebbero dovuto anche restituire 7 anni di bonus, perché questo prevedono in Gran Bretagna, ma quella è appunto la Gran Bretagna. Grazie al presidente del Monte dei Paschi e appunto da una settimana al presidente del Comitato degli Affari Sindacali del Lavoro dell'ABI, Alessandro Profumo, grazie anche al segretario generale della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, Lando Silioni. adesso andiamo con il traffico e poi l'ultima parte di questo programma, borsa velocemente la farò io perché varie le dichiarazioni oggi del Premier Renzi in una giornata in cui il governo ha preso atto che i dati economici sono altalenanti e ripeto, la crescita, ha detto Renzi poco fa, è decisamente più bassa di quello che ci aspettavamo e quindi non siamo in condizioni di avere un percorso virtuoso che avevamo immaginato. Possono esserci gli scossoni che ci possono essere, noi sto paese lo portiamo fuori dalle sabbie mobili e non perché noi siamo bravi, ma perché il paese è forte, perché possono esserci tutti gli editoriali di questo mondo, ma il paese è più forte delle paure degli editorialisti, perché il paese è più grande delle debolezze che talvolta la classe politica ha mostrato e il paese è in condizione, se finalmente liberato, di tornare a creare ricchezza in Europa e nel mondo. Questa è la nostra assoluta convinzione. Talvolta mi dico: Matteo, ma tu non starai sbagliando, vedi i giornali, la classe dirigente, sono tutti preoccupati, sono tutti terrorizzati. Non è che tu sei come il matto che va in autostrada contro mano e dici guarda questi che sono tutti... No, io sono convinto, certo e sicuro, che l'Italia è nelle condizioni di riuscire finalmente a guidare la ripresa dell'Europa. Eccolo qua, uno dei passaggi del discorso di Matteo Renzi alla direzione del PD, in cui appunto ha anche aggiunto la crescita è bassa, non ci sono le condizioni per il percorso immaginato. Nel giorno in cui, come ricordavamo in apertura, in attesa che l'Istat ufficializzi una crescita economica che non andrà oltre lo 0,2-0,3%, se va bene, altro che lo 0,8 previsto dal governo, dicevo, oggi abbiamo capito che l'Italia è praticamente in deflazione, l'inflazione è allo 0,1% e sul mese precedente meno 0,1% e che la disoccupazione, pur avendo un miglioramento, quella complessiva va detto, dal 12,6% si va al 12,3% a giugno, quindi 0,3% in meno, ma quella giovanile tocca il massimo da sempre, da quando la misuriamo, dal 1977, chi vi parla aveva 9 anni. 43,7% di disoccupati tra i giovani. Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore, buonasera. Ecco, buonasera a voi. C'è anche la frase, non ho tempo per farla sentire, di Renzi su Cottarelli, ha detto: rispetto e stimo Cottarelli, farà quel che crede, ma non è lui il punto fondamentale, la spending review la facciamo anche se va via, dicendo con chiarezza che i numeri sono quelli. Allora, è importante la riforma del Senato, ma a me sembra che l'accelerazione, come temevamo, sulla necessità di riforme per l'economia a partire dall'eliminazione dei costi impropri, non le tasse che non le puoi abbassare, ma penso in primo luogo ai costi della burocrazia, ai 18 permessi che ci raccontavano ieri gli imprenditori per sdoganare un container in Italia, ai 60 passaggi che devi fare per un cantiere, insomma, quelle riforme lì diventano sempre più impellenti, se no le potenzialità di cui parlava Renzi, a mio avviso, non si riesce poi a realizzare. Guido. Beh, esattamente così. A me è capitato oggi per caso di rispondere a un lettore nella rubrica che ho della posta, e ho detto: è arrivato il momento per Renzi di prendere in seria considerazione l'emergenza economia, perché le riforme istituzionali sono importanti, però non riescono a tirarci fuori da questa situazione difficile, che è un orizzonte zero crescita e zero inflazione, e quindi orizzonte in deflazione, e questo ci mette in una condizione di estrema debolezza e di paese più sorvegliato e ignorato in Europa. Ora, il Senato, diciamo, con la tagliola dell'8 agosto dovrebbe portarlo a casa. A questo punto, però, insomma, il governo sta iniziando a preparare il paese, diciamo così, al dato del 3 agosto, quando l'Istat ci dirà che ci scordiamo la crescita, perché 0,2, ragazzi, è inutile prendersi in giro. Non è recessione, siamo fermi. Allora, a questo punto tu immagini un'accelerazione anche a settembre di tutto il pacchetto di riforme, non penso solo al Jobs Act, penso anche alla riforma della burocrazia della pubblica amministrazione. È un anno che chiediamo una Bassanini per le imprese, l'autocertificazione, fammi partire e poi vieni a fare i controlli, basterebbe già questo per dimezzare i tempi per avviare un'attività. Prego. Assolutamente è necessaria un'accelerazione su questi fronti, credo che si farà in occasione della nota di variazione al documento di economia e finanza, e cioè il 20 di settembre, in vista dell'approvazione della legge di stabilità che è a metà ottobre. Lasciami però dire che servirà anche, se vogliamo davvero portare questo paese fuori dalle secche, una scossa fiscale, perché altrimenti non riusciremo a battere questo orizzonte zero. Scossa fiscale, tu dici anche una manovra, solo che Guido, in un minuto forse non ce la facciamo oggi, ma se il PIL cresce meno del previsto, il deficit, che è un rapporto deficit-PIL, aumenta più del previsto, quindi andrà al 3,3, 1, 2,9. Ora, il margine di manovra è praticamente scompare, cioè se tu avessi avuto un deficit al 2,6 potevi avere uno 0,4 di manovra, che comunque sono circa 6 miliardi, ma così la manovra non c'è più, perché già tanto si mantiene il tetto del 3%. Ma per questo lo dico, serve una scossa fiscale che va finanziata con la spending review, perché se noi ci portiamo dietro una manovra che non corregge dal lato della spesa in modo significativo, noi rimaniamo nella condizione di debolezza strutturale nella quale siamo. Sì, e quindi tu dici attenzione che senza un elemento anche di manovra sui conti pubblici, sulle entrate fiscali, no, noi non riusciremo comunque a dare la scossa sufficiente. Lì la partita si farà particolarmente complicata, perché sarà su due fronti, anzi anche sul fronte europeo, perché tutto questo, ammesso e non concesso che si ottenga dall'Europa di posticipare al 2015 a quel punto il piano di rientro sul deficit, e ci teniamo anche noi il 3,1-3,2%, è la cosa che mi preoccupa meno. Grazie anche a Guido Gentili, puntata tutta di corsa oggi, ma tantissimi temi intervenuti praticamente in diretta. Da Sebastiano Barisoni le auguro di una buona serata, noi ci risentiamo domani per un'altra puntata di Focus Economia dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.